guarda, oh mio, vediamo sempre cazzo. Sto cazzo di palle, palle, sono rotti i coglioni. Se ne cibano stampe le mani per no, no, raga, io mi rifiuto. Oh, no, no, basta. Rallegramola e basta, basta. C'ha ragione. Parti papero. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Felicità, più o meno, e ieri sera ho fatto foto col tuo libertino. Oh, la testa. Esisterà, perché lo seguita pure di domenica. Che devo fare? Per la giorno la sua gran bella pari. Guarda come sto ridotto male. Sono sfiga a me. Sono sfiga a me. Ho iniziato, ma la sfiga mi sarò perseguitato. Viva la sfiga. Sfiga me, è il mio nome, ma soprattutto il mio stile di vita attuale. Oh, sfiga me. Sono sfiga me. Ma che buono.